9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon lunedì 18 di gennaio, buon inizio settimana da Oscar Giannino. E cominciamo la settimana con uno dei classici tormentoni di Radio 24, con uno degli argomenti sui quali i diversi strumenti del gruppo editoriale Sole 24 Ore informa più e meglio di altri gli ascoltatori, i lettori, insomma tutti coloro che rappresentano una fetta importantissima di italiani, che hanno tutti i giorni, o quasi, che Dio manda in terra, qualche cosa su cui pesantemente riflettere intorno al patto, alla materia che più direttamente interviene nei rapporti tra Stato e cittadini. E sto parlando del fisco, come è ovvio. E oggi parliamo di una questione che non ha a che vedere con l'argomento che negli ultimi giorni ha animato le cronache, cioè il dibattito generale sulla riforma generale del sistema, sul quale il ministro dell'economia Giulio Tremonti, dopo qualche aspettativa, promessa, annuncio e qualche marcia indietro da parte del Presidente del Consiglio, ha chiarito definitivamente con una lunga intervista ieri al Sole 24 Ore, sono sicuro che molti di voi l'hanno letta, che qui la prospettiva è di 3 anni fino alla fine della legislatura, di un confronto sistematico, molto approfondito intorno ai principi generali e ai pilastri dell'ordinamento, piuttosto che un intervento in tempi rapidi per abbattere le aliquote marginali del prelievo sulle persone fisiche e giuridiche. Il ministro dell'economia ha in mente una riforma di ordine generale paragonabile a quella che nei primi anni 70 ha posto le basi dell'ordinamento così come lo conosciamo. Insomma, ha in mente un intervento che ha a che vedere molto con la filosofia e l'impostazione generale, prima che sul confronto su come qualche tassa in meno farcela pagare. Detto tutto questo, però, noi invece ci occupiamo dei rapporti ordinari, per così dire, cioè delle modalità con cui si articola il rapporto tra l'Agenzia delle Entrate, la Guardia delle Finanze, il meccanismo degli accertamenti e il contribuente. E direi di partire da un nostro ascoltatore che ci ha mandato una mail e ci ha descritto la situazione che anche in questi giorni per l'ennesima volta è in corso nella sua impresa. Credo che la cosa migliore sia proprio cominciare dalle parole di Alberto Zerbinato. Buongiorno Zerbinato. Buongiorno Oscar Giannino, buongiorno. Allora, lei ci ha mandato una lettera nella quale ci dice che nell'impresa che dirige cosa sta avvenendo. Sì, dunque è da una settimana che sono comparsi i verificatori dell'Agenzia delle Entrate. Piccola premessa, io non ho qualche cosa contro queste persone, perché capisco che, nonostante il fastidio, perché non le dico che siamo contenti della presenza di questa verifica, però insomma io capisco che nel gioco delle parti ci stia anche questo controllo, altrimenti se nessuno mai viene non è detto che uno non sia incentivato a tentare l'evasione. Però la vicenda è tutta intorno al tempo di permanenza di queste persone presso le aziende, che ahimè non per la prima volta noi vediamo arrivare e installarsi, come le dicevo nella mia mail, per periodi che sono secondo noi lunghi, perché in un'azienda che come la nostra ha perso il 10% per strada di fatturato come nel 2009 e oggi è tutta focalizzata a vedere come ripartire con il lavoro, si trova delle persone che ti dicono: guardi, noi siamo venuti a fare questa verifica, staremo qui 4 settimane. Allora io dico: ma come? È per forza indispensabile? Ma se voi venite e avete un dubbio, avete una cosa da verificare, è per forza doveroso stare a spulciare tutte le carte, rimanere un mese? O magari fate qualche controllo, vedete subito scusate, com'è la situazione, ci possono stare delle eccezioni per cui si sta una settimana, 3 giorni, 2 giorni, quello che è necessario. L'esperienza passata, adesso io magari se vuole la terrò aggiornata su quello che sarà il seguito di questa vicenda, ci ha fatto invece vedere delle persone che rimangono, stanno un mese e io non ritengo di essere un'azienda che evade le tasse, mi sembra di averle sempre pagate in maniera corretta. Quello che noto è un accanimento ad una verifica del nostro lavoro sulla parte contabile, cercando errori e errorini che porteranno, io immagino, a qualche piccola multa, che è un po' l'obiettivo, credo, almeno questo è quello che mi viene a pensare a vedere queste persone. Cioè nella vostra prassi è più l'obiettivo che insomma quello che si tende ad evitare, più l'obiettivo, lei dice? Sì, sì. Io non avrei niente in contrario, dicevo, se qualcuno ci controlla in maniera rapida, magari ci aiuta anche a vedere, ci aiuta a vedere se ci sono degli errori, delle incongruenze. Notiamo un controllo continuo di, per esempio, se i costi sono nell'anno di competenza giusta, se sono stati spostati, se sono stati messi, insomma, la normativa fiscale secondo me è molto complicata nella sua applicazione e quindi essere controllati su tutti gli aspetti. Lei nella lettera faceva naturalmente una proposta che serviva semplicemente a sottolineare paradossalmente qualche accanimento che nelle visite ispettive ogni anno la sua impresa, come tante altre, alla fine riscontra, cioè chiedeva, lo dico io così lei evita l'imbarazzo, magari ci fossero i funzionari della Guardia di Finanza dell'Agenzia delle Entrate in ascolto, chiedeva a noi Zerbinato, ma non è che per caso io, visto che qua partono settimane di lavoro ogni visita, devo mettere a loro disposizione un ambiente chiuso con loro le chiavi, mettere a disposizione tutti i dirigenti dell'impresa per settimane, tutte le settimane necessarie, visto che poi vengono quando vogliono e a quel punto devono essere a loro disposizione, non è che per caso potrei fatturare tutto questo alla Guardia di Finanza? E noi siamo stati costretti naturalmente a dirgli che le normative vigenti non consentono all'impresa tutto questo, anche se naturalmente la linea della difesa a spada tratta del contribuente in nome dei suoi diritti, dello statuto del contribuente, di cui parleremo oggi, una delle leggi più vilipese e offese che esistono nel nostro ordinamento, e articolo 23 e 53 alla mano, che sono i due articoli della Costituzione che presiedono alla sacra, dal nostro punto di vista, difesa del contribuente rispetto a quella molto più discutibile invece dello Stato. Ecco, in tutto questo la mia idea è che se magari qualche impresa ha l'idea di provare anche a mandare le fatture, sapendo che l'Agenzia delle Entrate le restituirà come irricevibili, e dovesse poi decidere di provare a intentare un'azione temeraria secondo il nostro ordinamento, tanto per suscitare l'attenzione, allora il mio consiglio è che lo faccia soprattutto quando le visite superano i 30 giorni, che sono quelli prescritti dallo statuto del contribuente, e noi ci occupiamo proprio di questa questione. Lo statuto del contribuente, in una delle sue tanto vilipese norme, stabilisce che il controllo non può durare più di 30 giorni. È una decisione sulla quale si è tornati recentemente, è una decisione che nella realtà, come in tanti altri principi e norme precise dello statuto del contribuente, non viene rispettata. Allora, in questo caso, a maggior ragione, secondo me, se qualche imprenditore in ascolto, piccolo, medio, grande che sia, in caso di violazione esplicita di una norma a difesa del contribuente posta dallo statuto, allora a maggior ragione l'azione temeraria incardinata attraverso il tentativo, ripeto, non ne avete diritto, di fatturare il tempo lavoro sottratto, le risorse umane sottratte, le risorse fisiche dedicate parzialmente all'accertamento, ma potrebbe magari essere anche interessante. Naturalmente si tratterebbe, di fronte poi al rifiuto dell'agenzia di sottoscrivere qualunque tipo di compenso e anzi di protocollare le vostre fatture, si tratterebbe poi di tentare un'azione il più possibile condivisa con altri per tentare poi magari di arrivare anche a un giudizio incidentale di costituzionalità. Su questa vicenda dei 30 giorni approfondiamo nel corso della trasmissione la vostra esperienza da casa, quindi chiamate 800 24 00 24 per dirci se le visite da voi durano più o meno di 30 giorni oppure magari non avete riscontrato il problema. Ma chiediamo subito a Marco Bellinazzo, che è un collega del Sole 24 Ore che si occupa approfonditamente e sistematicamente, tra gli altri, anche di questi argomenti, che è con noi qui in studio. Buongiorno Bellinazzo. Buongiorno a tutti. Ecco, di spiegarci un pochino meglio come sia potuto avvenire nella realtà del nostro paese che una norma ordinamentale così chiara nella realtà poi si presti a tutt'altra interpretazione. Come mai? Diciamo innanzitutto che nel caso che ci ha raccontato il nostro ascoltatore restiamo in questi limiti di legge. 4 settimane fanno 20 giorni lavorativi e quindi siamo sotto quel tetto dei 30 giorni fissato dallo statuto del contribuente. È accaduto quello che purtroppo in questi 10 anni da quando questa legge è stata approvata, questa legge che è stata approvata e di cui poi forse ci si è pentiti, no? c'è stata una deroga o esplicita o nei fatti. E fin dall'inizio, in questo con una certa coerenza, per esempio la Guardia di Finanza ha deciso di applicare questa norma, questo concetto di giorni lavorativi in maniera flessibile. Quindi si è detto, vabbè, una cosa sono i 30 giorni. Io adesso non interrompo Belinazzo, se non per farmi, cari contribuenti in ascolto, una risata, perché a me non risulta che quando devo sottoscrivere e adempiere i miei obblighi fiscali io lo possa fare in maniera flessibile, e mi faccio una risata tutte le volte che invece scopro che poi è lo Stato che interpreta flessibilmente le sue, il rispetto dei diritti ai quali egli stesso si è vincolato con le sue leggi nei miei confronti. Un rapporto che interviene su diritti naturali come sono quelli del contribuente rispetto a quelli successivamente costituiti da un ordinamento in maniera asimmetrica, la mia modestissima opinione di giurista in questo, è che configuri delle violazioni di diritti costituzionali. Perdona Belinazzo se ti ho interrotto. 30 giorni si è detto forse sono troppo pochi, in realtà dobbiamo considerare dal nostro punto di vista, e mi parlo dal punto di vista appunto dell'amministrazione fiscale, sono limitati, bisogna fare poi incroci di dati, non possiamo essere lì 30 giorni continuativi, e quindi a quel punto dobbiamo considerare solo quelli di effettiva presenza, e questo ha portato in molti, moltissimi casi a verifiche fiscali che sono durate non le 4 settimane che spaventano il nostro ascoltatore, ma addirittura 6 mesi, 8 mesi, addirittura 17 mesi in alcuni casi. Questo naturalmente si è tradotto in un contenzioso, e la giurisprudenza, che in un primo momento era molto restia a riconoscere i diritti dei contribuenti, appunto ultimamente lo sta riconoscendo. Quindi in quel discorso delle liti, di come difendersi, oltre a rivolgersi al garante del contribuente, ci si può rivolgere alle commissioni tributarie. Certo, si dovrà affrontare le spese e la burocrazia di una lite con il fisco, però c'è uno spazio per vedere riconosciuti i propri diritti. Abbiamo collegato con noi anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili, Claudio Siciliotti. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ecco, nella sua esperienza, ricordava adesso Bernazzo, c'è stato sicuramente qualche passo avanti della giurisprudenza, pur tuttavia quanto questo fenomeno del mancato rispetto, anche in questo, cioè nei tempi delle verifiche, nella vostra esperienza è più o meno diffuso, è diventato una prassi, in realtà si giustifica da quello che voi sperimentate solo davvero nel caso di imprese, che ne so, veramente grandissime, nel qual caso non dovrebbero essere poi molte, visto che purtroppo esse non sono così frequenti nel panorama di imprese del nostro paese, o in realtà dipende il più delle volte da scarsità di risorse dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto della Guardia di Finanza rispetto alla vastità dei controlli che operano, e quindi il fatto che poi devono procedere random e quindi la verifica dura più a lungo? Bah, diciamo che i passi in avanti sono stati pochi e timidi. Io credo che questo dello Statuto del Contribuente sia un punto centrale e dovrà essere un punto centrale di un'eventuale riforma globale del sistema, perché lo Statuto del Contribuente fissa dei principi e questi principi non possono essere derogati, come è avvenuto in questo ed in altri casi in questi 10 anni. Io credo che lo Stato non possa chiedere adempimento di obblighi al contribuente quando egli stesso non adempie a quelle regole che esso stesso si è dato. Il discorso dei tempi della verifica è uno degli esempi, non è l'unico. Evidentemente qui si dice non più di 30 giorni lavorativi, eventualmente prorogabili di altri 30 se ci sono problemi di particolare documentata complessità. Ma questa cosa, come è stato detto, viene interpretato non come il lasso di tempo massimo per aprire e chiudere il processo di verifica, ma quello il numero dei giorni massimi, quindi non consecutivi, quindi c'è un'incertezza totale sulla durata della verifica. Né la magistratura né lo stesso legislatore hanno rispettato questi principi. Io voglio ricordare che ci sono almeno altri 3 casi dove questi principi dello Statuto del Contribuente sono stati disattesi. Penso al principio dell'irretroattività delle norme tributarie, anche questo è stato bellamente saltato, o come la necessità che gli atti dell'amministrazione finanziaria arrechino il nome del responsabile del procedimento, se ricorda il tema della le cartelle mute, anche questo è stato saltato. E uno dei principi dello statuto del contribuente è la compensazione delle imposte, e noi sappiamo che questo è un diritto, ma è un diritto che è fortemente limitato. Allora io penso proprio questo, che sia il punto centrale della riforma del sistema, perché il sistema sarà riformato se darà credibilità. Da credibilità se siamo disposti a imporci delle regole che non possano essere superate neppure in caso di bisogno, e per bisogno intendo gettito, intendo l'inefficienza o la mancanza di personale dell'amministrazione finanziaria, intendo in nessun caso, perché eventuali incapacità del contribuente di far fronte ai suoi obblighi non hanno deroghe, non possono avere quelli dello Stato. Alberto Zerbinato ci deve lasciare perché è un cdiale. Gli voglio fare solo una domanda prima del saluto e del ringraziamento anche per aver voluto partecipare insieme a noi tutti il caso della sua impresa. Nell'esperienza so che gli imprenditori magari scrivono lettere riservate, poi però hanno qualche imbarazzo prima di fare un nome in cui sollevano un caso di fronte. La mia esperienza è questa: lei quanta solidarietà troverebbe secondo lei di fronte a un'azione pubblica collettiva che rivendicasse il rispetto dei propri diritti da parte dei suoi colleghi imprenditori? Ma non lo so, la volevo proprio verificare all'interno qui della Confindustria di Verona, vista l'idea provo a lanciarla, perché parlare per gli altri senza sapere, aver sondato, non saprei dire. Però immagino che molti siano insoddisfatti, più che per una volontà di ribellarsi alle regole dello Stato, per avere giustamente, come hanno detto le altre persone che sono intervenute, avere tempi chiari e regole certe per queste verifiche. Va bene, allora Zerbinato, diciamo che noi ci diamo appuntamento, come capiterà con uno degli altri ospiti nella seconda parte della puntata, per una verifica a tempo. Noi di qua vi incoraggiamo a farlo, naturalmente vi incoraggiamo a farlo anche sulla base di quello che facciamo professionalmente, il Sole 24 Ore su questo da molti anni dà approfonditamente conto giorno per giorno, settimana per settimana, con gli strumenti ordinari e con quelli ad hoc dedicati dal quotidiano a tutto quello che avviene nella giurisprudenza italiana, ai casi più controversi, per consentire alle imprese italiane, diciamo, di essere un po' meno nude di fronte a quelle pretese dell'ordinamento fiscale, verso i quali secondo me troppi cittadini sono troppo immediatamente solidari, dimenticandosi che poi un rapporto equo con il fisco si basa sul presupposto del fatto che il contribuente non sia una vittima del fisco. Buongiorno cari ascoltatori, siamo in questa seconda parte della nostra versione di Oscar. Ci stiamo occupando oggi di uno dei punti dello statuto del contribuente, norma che presiede alla difesa dei diritti dei noi contribuenti nei confronti del giuste, non sempre, però insomma, delle giuste pretese dello Stato, e abbiamo visto come la durata delle ispezioni, 30 giorni tassativamente disposta allo studio del contribuente, sia una norma da subito, appena approvata la legge, che la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, ha detto no, un momento, 30 giorni. Beh, vediamo, noi non è che siamo in condizione di rispettare questo termine tassativo, e quindi ispezioni lunghe, ispezioni fuori da quello che la norma stabilisce come termine perentorio oltre che ordinatorio. Sentiamo le opinioni di alcune di voi prima di tornare ai nostri ospiti. Cominciamo con Faustino che ci chiama da Livorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Niente, io ho un rapporto di lavoro ormai di consulenza con un'azienda, e questo rapporto è iniziato lontano 69-70. Penso prima dell'entrata in vigore del statuto del contribuente è stata soggetta a accertamento da parte della Guardia di Finanza a causa di una società che faceva parte dello stesso gruppo. La Guardia di Finanza praticamente è stata 2 anni e mezzo in ufficio, negli uffici della ditta, al punto tale che avevano dedicato una stanza alla persona che era lì a fare i controlli. Dopo 2 anni e mezzo non hanno rilevato niente, e il risultato finale è stato che il nipote di questa persona che effettuava i controlli alla fine è stato anche assunto in azienda. Il nipote di chi, non ho capito bene? Il nipote della persona che è tutti i giorni ormai come un impiegato stesso della ditta, perché gli era stata praticamente dedicata un ambiente all'interno degli uffici per svolgere il lavoro di controllo sui documenti, e alla fine è stato anche assunto nell'azienda. Cioè, è stata una modalità indiretta per por termine a questa specie di lunga visita che avveniva, praticamente era diventato un hotel e faceva del turismo dopo 2 anni e mezzo, ma non lo so. Noi abbiamo notizie di visite molto lunghe, tra l'altro le visite molto lunghe in teoria dovrebbero avvenire quando le aziende hanno lo stato amministrativo, contabile, e quindi anche quello degli adempimenti fiscali forse più problematico. È anche vero che la durata, Berinazzo, che dice, la durata delle visite spesso dovrebbe identificare proprio i casi più delicati, o no? Esattamente, solo nei casi complessi si può avere quella proroga, ma che dovrebbe essere anch'essa di soli 30 giorni, e che abbiamo visto spesso e volentieri da parte di chi poi fa questi controlli viene questo termine non rispettato. Si dice, come ripeto, per esigenze tecniche, ma oggi con la tecnologia, con le banche dati che ha a disposizione il fisco, non dico che si possano fare controlli quasi in tempo reale sulla situazione finanziaria dei contribuenti, ma ormai ci siamo quasi vicino, per cui effettivamente la permanenza per così tanto tempo, per settimane, nelle aziende, negli studi dei professionisti risulta spesso ingiustificata. Diciamo la verità, il sospetto che viene sentendo alcune storie, adesso non devo come questa che fa molto riflettere, ma di periodi lunghi, è che la stessa permanenza diventi una modalità attraverso la quale, diciamo, l'operatore di accertamento preme in qualche maniera sull'azienda per dire vabbè, ci vogliamo capire che devi pagare una bella multa e non fiati, oppure no. Almeno questa è la mia impressione ed esperienza anche personale per un paio di aziende in cui ho lavorato. Sono eccessivo come sempre, che dici? In questo caso direi di no, che ci può essere questo rischio o questo pericolo. In ogni caso, come dire, la contiguità che poi si viene a creare tra il controllato e il controllore in questi lunghi periodi, quando abbiamo sentito appunto addirittura si dedica una stanza, si predispone un luogo e si aggiunge del proprio personale, è chiaro che crea poi una situazione di vicinanza che non so se può portare in tutti i casi ad assunzione di parenti o nipoti o ad altre forme di prebende, ma in ogni caso questo rischio c'è ed è ben presente, voglio dire, agli stessi organi superiori di controllo della Guardia di Finanza delle entrate. Naturalmente sia ben chiaro per tutti i finanzieri in ascolto che il nostro rispetto istituzionale per l'Arma, per l'Agenzia delle Entrate, per tutte le articolazioni dello Stato che hanno a che vedere con le entrate a fini consanguinei fino al 7° grado, come direbbe Totò, è assoluto. Però viene dopo il rispetto dei diritti dei contribuenti, è chiaro? Ecco, cioè, da queste parti non si pensa che lo Stato abbia sempre ragione, lo Stato deve sottoporsi al rispetto delle norme di fronte alle quali è così esigente chiedere il rispetto a noi stessi. Davide da Roma, qual è la sua esperienza? Buongiorno, sono molto d'accordo con quello che lei sta dicendo stamattina, ma in particolar modo io mi soffermerei anche sul tipo di accertamento che fa l'Agenzia delle Entrate. Perché spesso non fa accertamento, ma fa presunzione, e questa è una cosa molto grave, anche perché sulla presunzione, quindi a seguire il verbale, viene subito richiesto il pagamento del 50% del verbale. Hai voglia che lei fa ricorsi, cerca di applicare, di usare tutte le leggi che sono in possesso del contribuente, ma quella somma che le viene richiesta di ufficio va talmente veloce che lei nel giro di 60 giorni dovrà pagarla. Il vecchio Brocardo, che presiedeva rapporti meno democraticamente garantiti per secoli tra lo Stato e il cittadino, diceva in latino solve et repete, prima ti faccio pagare, poi tu protesta, va che è meglio, che come vede si applica 50%, la dice lei, ma continua ad applicarsi. Anna da Milano, invece la sua esperienza qual è? Ma io sono, buongiorno a tutti, io sono commercialista e la mia esperienza, ahimè, è abbastanza negativa, perché nella mia attività professionale assisto quasi quotidianamente a evidenti violazioni di quelli che sono comunque i diritti acquisiti di ogni singolo cittadino. Brevemente posso citarne due che mi sono successi proprio la scorsa settimana. Un contribuente che aveva presentato tutta la sua dichiarazione in seguito a una richiesta di documenti, alla fine si è visto iscrivere a ruolo una somma di 1.800 euro che non erano stati cancellati per difetto di dialogo fra l'agenzia e l'Esatri, morale della favola, fermo amministrativo, la macchina non la poteva usare, questo qua è un medico che fa chirurgia d'urgenza e aveva l'angoscia di non poter usare la macchina perché aveva problemi, perché non sapeva se la macchina gliel'avrebbero poi portata via oppure no. Però... un'altra iscrizione di un'ipoteca per un debito di 2000 euro e anche qua chiaramente l'ipoteca è stata cancellata a scapito di oneri che sono dovuti comunque stati sostenere. A prescindere da questi, da queste esperienze personali, ho proprio la netta sensazione che non ci sia nessun dialogo veramente, e questo mi spiace dirlo, fra il fisco, chiamiamolo il fisco con la F maiuscola, e il contribuente, perché c'è proprio anche da parte noi stessi come liberi professionisti non abbiamo, a parte alcuni organi istituzionali che si muovono per agevolare i rapporti, ma noi stessi dialoghiamo veramente a fatica, molto poco e molto fatica. Grazie anche all'esperienza di Anna da Milano. Ci ha raggiunto telefonicamente un nostro ospite fisso, sia pure periodico, il presidente della Confindustria Belluno Dolomiti, Valentino Vascellari. Buongiorno presidente. Lei. Al quale spesso abbiamo dato voce in passato, lo ricordate, perché è stato tra i presidenti di Unione Territoriale Locale nel Nord-Est colui che ha energicamente, con un'azione pubblica che naturalmente espone sempre come quando si intraprendono azioni pubbliche, ha richiamato l'Agenzia delle Entrate e delle Articolazioni Periferiche al rispetto di quello che era stato assunto dallo Stato come termine per la possibilità di oblazioni diluite nel tempo per le imprese in difficoltà, e che invece poi le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate mostrava di non ricordare più che fosse stato invece esplicitamente posto dallo Stato nell'anno di crisi. E attraverso l'iniziativa del presidente Vascellari, di tutti i suoi iscritti e di altre associazioni territoriali poi del Nord-Est, si è divenuti a una vittoria, perché abbiamo ricordato in passato, come poche settimane fa, come alla fine l'Agenzia delle Entrate è dovuta rientrare nel recinto del rispetto dei diritti. Dico questo perché stiamo ricevendo alcuni sms di ascoltatori che mi dicono: caro Gianni, non sei sempre uguale, sei filo evasore, tu non parli mai delle porcherie degli evasori, parli sempre delle presunte porcherie dello Stato che vuole i soldi. No, io faccio notare a chi è in ascolto che io non difendo gli evasori, però il mantra quotidiano ripetuto di quanto siano maiali, per così dire, parole vostre, gli evasori lo sento da tutte le parti. Invece il rispetto del contribuente nei confronti delle vessazioni dello Stato io non lo sento quasi da nessuna parte, e quindi viva il gruppo editoriale Sole 24 Ore, che dà tutti gli strumenti tecnici, oltre che anche qualche sfogatoio e qualche voce, perché i meccanismi sono, oltre l'exit c'è la voice come meccanismo per tutelare i propri diritti nell'economia, per consentire al contribuente di considerarsi il vero protagonista nel rapporto nello Stato, e cioè non il suddito. Presidente Vascellari, dei temi di cui stiamo parlando oggi, quindi durata delle ispezioni, in modalità delle ispezioni stesse che talvolta servono semplicemente ad arrivare a far digerire meglio le multe alle imprese stesse eccetera, dalle vostre parti l'esperienza qual è? Lo statuto del contribuente viene rispettato? Ma lei è come sempre estremamente puntuale, vedo che siamo in sintonia, perché proprio questa settimana noi abbiamo organizzato per i nostri associati un convegno sul tema, e tra l'altro un convegno che sta dimostrando un successo assoluto. Abbiamo dovuto addirittura spostarne la sede in una sala più ampia perché abbiamo avuto decine e decine, passiamo il centinaio di adesioni, mai succede che i nostri convegni, per quanto interessanti, riscuotano tutto questo successo, che è incentrato espressamente sulle modalità delle verifiche fiscali in azienda. Avremo quindi un ordinario di diritto tributario, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il capo dell'area accertamento della stessa agenzia e un paio di comandanti della Guardia di Finanza della nostra provincia. Allora, qual è lo scopo del convegno? Proprio il tema che lei ha toccato, e cioè non ci sono dubbi sul fatto che noi siamo a fianco all'attività di verifica, perché siamo assolutamente convinti che solo attraverso la severità di una verifica e la severità di attenzione da parte degli enti preposti arriveremo al risultato che tutti paghino le imposte, cosa che noi vogliamo, perché riteniamo che chi non paga le imposte fa della concorrenza sleale nei confronti dei propri altri competitori sullo stesso mercato, però chiediamo e vogliamo stare attenti affinché queste verifiche vengano fatte secondo il corretto spirito dello Statuto dei Contribuenti. E perché non ci siano due pesi e due misure, ed è proprio l'applicazione dell'articolo 12 del Statuto dei Contribuenti, quello che deve che regolamenta la durata delle visite che vengono operate dagli accertatori, che ci lascia qualche dubbio sul fatto appunto che mentre il contribuente deve ed è costretto con attentissimo rigore a dover rispettare i propri tempi, da parte dello Stato che si dà le regole, poi i tempi vengono interpretati con italica furbizia. Per esempio, appunto, il tema della durata delle verifiche, che si dice debbano durare 30 giorni lavorativi, che per tutti noi significano i 5 giorni della settimana di calendario, e che invece spesso da parte degli accertatori vengono interpretati come 30 giorni a scelta. Esattamente. 30 giorni che gli accertatori decidono di stare in azienda, e quindi se ci stanno questi 30 giorni vengono diluiti per paradosso per 30 mesi, 30 mesi può durare la verifica, e questo è ovvio comporta disagi enormi ma anche costi, perché soprattutto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, le nostre aziende hanno avuto cali pesantissimi di fatturato. Cosa succede in questi casi? Si ridimensionano gli organici, si cerca di stare al minimo, si cerca di sopravvivere nell'attesa della ripresa, e quindi anche gli organici impiegatizi, il settore amministrativo viene tenuto attraverso gli ammortizzatori sociali a casa il più possibile. Se arriva una verifica, bisogna che uno o due persone restino perennemente in azienda, anche se in quel frangente potrebbero non servire, perché devono stare a disposizione di accertatori che non si sa mai quando arriveranno. E questo è un paradosso. Io ringrazio il presidente Vascellario, ce lo lascio in informazione stradale. Nell'ultima parte della trasmissione con Siciliotti e Belinazzi facciamo una riflessione su come in questo percorso di riforma, che viene annunciato come un percorso lungo, impegnativo, eccetera, la parte della difesa dei diritti del contribuente, cioè lo statuto del contribuente, vada riposta al centro. Fino a questo momento il ministro non ne ha parlato, vediamo cosa ci dobbiamo attendere su questo. Eccoci a questa parte finale della puntata di oggi, dedicata ai tempi delle verifiche fiscali, a quanto prescritto dallo Statuto dei Contribuenti, allo scarso rispetto di questi 30 giorni, moltissimi sms che sono arrivati, molti di voi si associano alle dichiarazioni con gli sms di coloro che pensano che la durata e la modalità, soprattutto la pervasività talora delle ispezioni, soprattutto quando sembra che non emergano delle irregolarità, è volta, per così dire, a contrattare in maniera del tutto impropria la volontà dell'azienda di versare comunque qualche oblazione, e comunque anche ascoltatori che ci dicono naturalmente attenti alle altre modalità di accertamento. Ma oggi noi non stiamo parlando di studi di settore, non stiamo parlando di rendite catastali e così via. Ci sono moltissime segnalazioni, queste ci vengono ogni giorno, per esempio di come qualche comune stia prendendo la cattiva abitudine di applicare retrospettivamente l'aggiornamento delle rendite catastali dell'Agenzia delle Entrate del Demanio. Su questo faremo trasmissione ad hoc e anche agli studi di settore. Oggi fermiamoci a questa cosa delle verifiche, e fermiamoci però dopo un'ultima telefonata anche a un aspetto più ampio, perché altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo, che è quello di mettere lo statuto del contribuente e la difesa dei diritti del contribuente al centro poi del processo di riforma. L'ultima chiamata è quella di Sebastiano da Caserta. Prego Sebastiano. Salve, buongiorno. No, io mi volevo volevo dire che gli accertamenti possono essere anche velocissimi, di 2-3 giorni, a condizione però che per quanto riguarda la pratica venga tolta al consulente e portato al nipote o al figlio, a qualche parente del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Ah, lei dice che di solito se si fa così si accelera molto. Sì, certo, a Santa Maria così succede. Santa Maria e Santa Maria Capua Vetere. Capua Vetere, sì, anche se gli ordini lo sanno e non intervengono. Grazie Sebastiano, che ha avuto anche giustamente il coraggio civile di indicare un posto, il che significa che da quelle parti forse bisognerebbe andare a vedere un po' meglio come funziona Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Io lo dico con sereno sprezzo del pericolo, avendo la finanza accampata da anni sui miei conti bancari, ma come giusto, per carità, ma questo poi giustifica anche che ho un conflitto di interesse, per così dire. Allora, Presidente Sicigliotti, di questo lungo percorso approfondito di cui ci annuncia il Ministro di riforma del fisco troppo complesso, dice né giusto né efficiente, parole di Tremonti con cui ero porta a porta, che cosa dal suo punto di vista ci si può aspettare che sulla difesa dello statuto del contribuente e comunque di un rafforzamento della difesa dei diritti del contribuente venga o non venga? Fino a questo momento il Ministro su questo non mi sembra che sia uno dei temi su cui è più sensibile. Prima mi permetta due considerazioni. Ho ascoltato con molta attenzione tutti quelli che sono intervenuti e credo che al di là di tutto dobbiamo commentare favorevolmente, diciamo, sia la civiltà che la razionalità delle osservazioni. Non abbiamo ascoltato sguaiate proteste, ma puntuali e condivisibili considerazioni di cui probabilmente dovremmo tenere conto. Un secondo aspetto, sull'esperienza anche personale, la permanenza eccessiva in sede di verifica non è soltanto un fenomeno distorsivo perché lede i principi dello statuto del contribuente, ma induce un fenomeno pericoloso di cui dobbiamo tenere conto, una sorta di concertazione tra il funzionario dell'amministrazione finanziaria e il contribuente, che in qualche modo negoziano i punti sui quali è possibile pensare di fare un accertamento e altri che in una sorta di compensazione vengono viceversa trascurati. Questo dobbiamo tenerlo presente, per questo le verifiche devono durare esattamente il tempo consentito dallo statuto. Quanto alla domanda generale, che è l'aspetto importante, anche perché credo... Presidente, è una concertazione, chiamiamola così, che in quel caso avviene fuori dai diritti garantiti, esatto, di contestazione impugnativa e così via, quindi è improprio. Che accade? Io questa cosa la rilevo e quest'altra no. Se me ne dai un'altra io trascuro questa. Queste sono cose che non devono assolutamente accadere. Ma la domanda è più impegnativa. Lei mi dice parliamo di riforma del sistema fiscale. Io lo dicevo nel precedente intervento, la riforma del sistema fiscale non può prescindere dal porre al centro il tema dello statuto del contribuente, uno statuto che è già stato ricordato a 10 anni, ma non ha avuto 10 anni felici, è stato così tante volte disatteso da considerarlo una norma che tutto sommato non ha inciso così profondamente sui nostri comportamenti come avrebbe dovuto essere. Io credo che nella riforma del sistema fiscale dobbiamo pensare a uno statuto del contribuente come norma di rango costituzionale, perché dobbiamo farla salire nella considerazione della collettività, perché se no sarà sempre qualcosa dalla quale si può in qualche modo derogare. E secondo aspetto di centralità, dobbiamo riflettere sulla figura del garante del contribuente. Questa figura deve essere effettiva, deve essere più forte, deve avere una ramificazione territoriale e deve essere proprio il terminale di tutte quelle considerazioni che abbiamo ascoltato fino adesso, che sono considerazioni di cittadini, sono considerazioni civili, sono talvolta anche delle denunce, e con una corretta organizzazione sia centrale che territoriale devono essere recepite, non devono essere affidate alla capacità dei giornalisti, come si sta facendo egregiamente in questo momento, di recepire queste istanze, ma deve essere lo Stato stesso in grado di recepire queste indicazioni e dargli in tempi rapidi, in tempi certi, una solerte risposta. Io credo che queste siano le due cose sulle quali bisogna lavorare: la centralità dello statuto, una norma di rango costituzionale, un'estensione o un rafforzamento della figura del garante del contribuente. Grazie Presidente Sicigliotti, rispondo io a una raffica di sms rabbiosi che ho suscitato con i miei interventi precedenti. Posso ridere perché sono abituato a dialogare con il pubblico di Radio 24, che è un pubblico che spesso pensa che il sottoscritto sia dalla parte degli evasori, com'è. E allora moltissimi dicono: adesso abbiamo appreso da lei, autore del libro Contro le tasse, che deve essere il verificato a decidere come deve essere verificato dallo Stato. No, cari ascoltatori, molto solleciti nei confronti di questo tenero e implume uccellino che è lo Stato italiano, che ci prende poco più del 50% del reddito nazionale, lo intermedia con le sue mani così efficaci, come è noto. No, no, non si tratta di questo, si tratta di un'altra cosa. I due articoli, lo ripeto sempre, della Costituzione che toccano il fisco, il 23 e il 53, sono anch'essi palesemente violati. Il 23 è una riserva di legge assoluta. Viviamo in un paese che da decenni modifica tasse, adempimenti fiscali, ma non attraverso atti che hanno il valore di legge nel nostro ordinamento, magari no, coi regolamenti, con le circolari, ed è incostituzionale. Ve lo volete dimenticare? Voi forse sì, io no. Il 53 è quello della progressività, giustamente invocata da tutti coloro che dicono la progressività è il sistema di civiltà di un ordinamento perché redistribuisce. Ebbene, nelle imprese il 53 ha un effetto paradossalmente rovesciato piuttosto che sui redditi delle persone fisiche. Le imprese, maggiore è il loro perimetro, maggiore è il loro tasso di finanziarizzazione, più possibilità a non dare di credito in IVA prima di chiudere i conti, e quindi questo è il motivo per cui io con le mie due società pago 62%, Unicredit paga l'11%. L'articolo 53 va sotto i piedi. Però concludo lasciando a questo punto a Bellinazzo, a un collega molto più moderato di me, che deve poi tecnicamente ogni giorno, questo è il suo mestiere, mettere i lettori e le imprese in condizioni di capire come funziona la giurisprudenza su questo. Gli faccio la stessa domanda che ho fatto a Siciliotti: cosa si aspetta dal punto di vista dell'evoluzione del nostro mestiere su questi temi? Invece, innanzitutto mi veniva prima in mente un film con Aldo Fabrizi e Totò, dove avveniva quella concertazione cui accennava prima il presidente Siciliotti. Se andava bene in Italia negli anni 50-60, non dovremmo andare bene nell'Italia del 2010, soprattutto perché non tutti i verificatori sono simpatici come Aldo Fabrizi. Detto questo, c'è una meritoria azione che sta facendo l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza nei confronti degli evasori, con risultati importanti, e questo è l'assunto da cui partiamo. C'è però una legge, lo Statuto dei Contribuenti, che prescrive tempi chiari ed è un patto tra cittadini e fisco. Ultimamente i tempi si stanno riducendo degli accertamenti, per esempio l'Agenzia delle Entrate ci ha detto che quelli che durano tra i 20 e i 30 giorni per le imprese più grandi, quindi entro quel limite, ma come in tutte le statistiche c'è il problema del paradosso di Trilussa, quindi bisogna fare più attenzione ai tempi. Grazie a Marco Bellinazzo, insomma continueremo a occuparci di questi temi. E ringrazio tutti gli ospiti e voi che ci avete ascoltato, ringrazio regia Carmelo Lauricella e Alessandro Marco Tun di redazione, la linea del giornale radio, l'appuntamento a domani. Mm.